Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30, ma ricordo anche che saremo, per chi ci può ascoltare, anche in quel di Padova il venerdì pomeriggio su Radiazione. Comunque andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano Retribution dei Behind Enemy Lines è la sigla di inizio trasmissione, ovvero inizio di Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 in diretta radiofonica proprio qui da Radio Onde Furlane. Perciò, come sempre, potrebbe accadere di tutto nelle nostre dirette. E anche prima ho menzionato radio web, che è Radiazione, che potrete ascoltare su Telegram o Facebook. Magari vi daremo dettagli maggiori, comunque questo nel venerdì pomeriggio. Bene, ora andiamo all'ascolto così a presentare i prossimi brani da questa band di Cesena. Loro sono i Contrasto e andiamo da un loro, anzi, il loro 7 pollici di esordio, 7 pollici uscito nel 97. Quindi band che esiste ormai da 25 anni, anzi nei prossimi mesi uscirà il loro nuovo album. Comunque loro sono i Contrasto e questo è il loro 7 pollici Dentro le mura. saluto a tutte e a tutti. È bello iniziare la trasmissione con il disco d'esordio dei Contrasto e Dentro le mura, e noi speriamo appunto di spaccare queste mura e anche di rompere il silenzio assordante che circonda le mura. Parliamo appunto delle mura del carcere e in generale di tutte le istituzioni totali di contenimento e reclusione, e parliamo nello specifico stasera delle mura che si possono definire anche segrete che seppelliscono del regime differenziato speciale di 41 bis. E appunto abbiamo pensato di dedicare la trasmissione alla lotta del compagno anarchico Alfredo Cospito, che si trova da circa 6 mesi, dall'inizio di maggio 2022, segregato al 41 bis, e che dal 20 ottobre scorso ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame a oltranza, che significa che potrebbe essere portato avanti fino al suo decesso. E questo sciopero della fame Alfredo lo sta portando avanti contro per denunciare le condizioni estreme di detenzione in cui si trova, e comunque contro il regime di 41 bis e anche contro l'ergastolo ostativo. E appunto Alfredo ha annunciato questa sua decisione, ha annunciato l'inizio di questa sua lotta, una lotta importante, che importante per se stesso, diciamo, ma anche per tutti i prigionieri e le prigioniere. Una lotta che trovandosi in quel regime lui può portare avanti utilizzando diciamo solamente il proprio corpo, in quanto per il resto, a parte diciamo la fornitura di cibo per la sopravvivenza in quel regime lì, altre cose diciamo già si è già privati di tutto, quindi è difficile così individuare forme di lotta diverse, e quindi Alfredo ha deciso appunto di utilizzare il suo corpo come diciamo arma estrema di lotta contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Dicevo che ha deciso di rendere pubblica questa sua lotta durante un'udienza che si è tenuta appunto il 20 ottobre, un'udienza che riguardava il divieto, seguiva un reclamo fatto al magistrato di sorveglianza per la censura applicata alla corrispondenza. E appunto durante questa udienza, in videoconferenza, perché appunto i prigionieri in 41 bis non possono essere presenti, il compagno ha letto una articolata memoria difensiva dove appunto spiegava un po' tutte le sue ragioni. E la cosa, l'estrema violenza insomma anche di questa situazione qua, il giudice ha potuto silenziarlo semplicemente schiacciando un bottone. E sì, quindi insomma la situazione è questa. E allora io vorrei magari leggervi un appello che è importante, perché è un appello internazionalista, cioè invita a una mobilitazione internazionale per questa lotta di Alfredo, e difatti è un appello che è stato diffuso in molte lingue, insomma. E inizierei appunto leggendo questo appello, che mi pare importante anche per questo respiro che ha, e poi magari vediamo anche un po' altre questioni che sono state sollevate dagli avvocati di Alfredo, che sono avvocati veramente in gamba e che hanno insomma sono riusciti a anche far uscire un po' anche in ambienti non solo diciamo di stretta militanza come possono essere i nostri, a far uscire un po' la questione di questa detenzione. Allora, appello per una mobilitazione internazionale: non permettiamo l'assassinio di Alfredo Cospito in sciopero della fame dal 20 ottobre. Lo scorso 20 ottobre l'anarchico Alfredo Cospito, nel corso di un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ha tentato di leggere un'articolata dichiarazione nella quale annuncia di essere entrato in sciopero della fame contro il regime detentivo di 41 bis a cui è sottoposto e contro l'ergastolo ostativo. Una battaglia che Alfredo non intende interrompere fino al proprio decesso. Il compagno, che si trova in 41 bis dallo scorso 5 maggio con un decreto firmato dall'allora ministra della giustizia Marta Cartabia, è attualmente detenuto nel carcere di Bancali in Sardegna. Alfredo Cospito è un anarchico da sempre in prima linea nelle lotte, mai disposto a compromessi o ad arrendersi. È un compagno che ha lottato dalla fine degli anni 80, periodo nel quale venne incarcerato come obiettore totale per il rifiuto di svolgere il servizio militare obbligatorio e che dopo l'arresto, avvenuto nel 2012, nel corso del processo che ne è seguito, ha rivendicato il ferimento del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, realizzato dal nucleo Olga, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale, e avvenuto il 7 maggio dello stesso 2012 a Genova. Alfredo è sempre stato attivo nella difesa dei compagni colpiti dalla repressione in ogni angolo del mondo. La sua lotta oggettivamente riguarda tutti i detenuti, tra i quali ricordiamo particolarmente i 3 militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, rinchiusi da oltre 17 anni in 41 bis. Parliamo di Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma. Nel 2009 la compagna Diana Blefari, della stessa organizzazione, si tolse la vita dopo la permanenza in questo duro regime carcerario. Alfredo si trova in carcere ininterrottamente da 10 anni, trascorsi nelle sezioni di alta sicurezza fino al trasferimento in 41 bis. Nel 2016 è stato coinvolto nell'operazione Scriptamanent, accusato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di molteplici attacchi esplosivi. A seguito della sentenza di Cassazione del luglio di quest'anno è stata riformulata la condanna per lo stesso Alfredo e per Anna Beniamino in strage politica, la cui unica pena prevista è l'ergastolo, tra l'altro l'ergastolo ostativo. Lo Stato italiano, che ha sempre protetto gli stragisti fascisti, ora vuole condannare per strage due anarchici per un attacco che non ha provocato né vittime né feriti. Alfredo da anni contribuisce con articoli, progetti editoriali e proposte al dibattito anarchico internazionale. Per questo motivo è stato più volte sottoposto a censura e divieto di comunicazione con l'esterno, venendo condannato per la pubblicazione di vari fogli anarchici e dell'ultima edizione di Croce Nera Anarchica, è attualmente indagato per la pubblicazione del giornale anarchico Vetriolo. Dopo questi provvedimenti, nel mese di maggio ad Alfredo è stato applicato il 41 bis e successivamente è stato trasferito dal carcere di Terni, nel quale stava scontando la pena in alta sicurezza, a quello di Bancali, a Sassari. In questo modo gli viene impedito ogni contatto con l'esterno. Il 41 bis è un regime carcerario di annientamento, in quanto studiato per provocare danni fisici e mentali tramite la tecnica della deprivazione sensoriale. Si tratta di una condanna alla morte politica e sociale, volta a recidere ogni forma di contatto con l'esterno. Il trattamento riservato ad Alfredo ci ricorda le parole attribuite a Benito Mussolini su Gramsci: bisogna impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. Esemplificativo del buco nero nel quale si finisce una volta entrati in 41 bis è proprio quanto accaduto il 20 ottobre durante l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari. In questa udienza è stato impedito ai solidali di entrare in aula. Il compagno si trovava collegato in videoconferenza dal carcere, come previsto dalle regole del 41 bis, e quando ha tentato di leggere la propria dichiarazione gli è stata tolta la voce schiacciando un bottone. La dichiarazione è secretata dai giudici. Se gli avvocati la diffondessero, rischierebbero una pesante condanna penale. La vicenda vicenda del compagno Alfredo si intreccia con un clima repressivo sempre più cupo nel paese. Fuori dal movimento anarchico assistiamo a una repressione sempre più opprimente, anche contro operai, studenti, movimenti sociali. Citiamo il caso più eclatante: quest'estate la procura di Piacenza ha aperto un'inchiesta contro dei sindacalisti accusandoli di estorsione perché chiedevano, con una lotta radicale, picchetti e blocchi stradali, degli aumenti salariali al padrone. Vogliamo che si comprenda anche all'estero che la china repressiva che sta prendendo lo Stato italiano riguarda tutti in prima persona, dato che un precedente di queste dimensioni nel cuore dell'Europa potrebbe essere foriero di ulteriori balzi repressivi anche ad altre latitudini. Tutto ciò sta accadendo mentre la crisi sociale e la crisi militare internazionale peggiorano di giorno in giorno. Sappiamo che questi sono i contesti ideali per mettere in atto svolte autoritarie da parte dei governi. Abbiamo poche settimane per salvare la vita di Alfredo Cospito, per evitare il suo assassinio, ma soprattutto per dare un segnale di contrattacco a quanto sta succedendo. Riteniamo lo Stato responsabile della vita e della salute del compagno. Mobilitiamoci in tutto il mondo, facciamo pressione sullo Stato italiano affinché Alfredo possa uscire dal 41 bis. Compagni e compagne, 25 ottobre 2022. Sì, allora, quello che ho letto prima era appunto questo appello di mobilitazione internazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito. E, proseguiamo appunto dando la parola, diciamo, anche agli avvocati difensori, Flavio Rossi Albertini e Maria Teresa Pintus. Come prima già nell'appello si diceva, il regime di 41 bis prevede che chiunque, compresi i difensori, diffonda le parole del prigioniero fuori dalle mura del carcere sia passibile di denuncia penale. Per i legali nello specifico sono, non solo per i legali, ma insomma sono previsti dai 3 ai 7 anni di carcere per chiunque appunto faccia uscire le parole. Perciò gli avvocati non hanno fatto uscire le precise parole di Alfredo, ma hanno narrato qualcosa di oggettivo, cioè quali sono le condizioni che oggettivamente il compagno si trova a vivere dentro il carcere. Tra l'altro c'è anche un medico di parte che è stato nominato per appunto tutelare, diciamo, vigilare sulla salute e sulla salute appunto del compagno, la quale, anzi perché è una dottoressa, appunto può informare sullo stato di salute del prigioniero. Quindi gli avvocati hanno appunto scritto una sintesi, una memoria sintetica per far sapere al mondo fuori dagli addetti ai lavori e dal carcere che cosa sta succedendo, perché è importante che anche le persone tra virgolette normali sappiano che nelle carceri italiane ci sono dei prigionieri che stanno facendo lo sciopero della fame in lotta e che queste cose non succedono solamente nei cosiddetti regimi autocratici o nei regimi autoritari, ma anche nelle democrazie occidentali. Allora, così leggo parzialmente questo comunicato che è stato redatto dagli avvocati Albertini e Pintus. Beh, ci dicono appunto che il giorno 20 ottobre Alfredo Cospito, detenuto anarchico, ristretto al 41 bis nella casa circondariale di Bancali, ha letto nel corso appunto di una camera di consiglio, ha letto un'articolata memoria difensiva con la quale denuncia le insopportabili condizioni detentive a cui è sottoposto, dichiarando al contempo la decisione di intraprendere uno sciopero della fame per protestare sia contro il regime penitenziario subito che contro l'ergastolo ostativo. Questa sintesi, ci dicono gli avvocati, lungi dal veicolare il testo dallo stesso letto in aula, intende informare la stampa di settore e le associazioni a tutela dei diritti dei detenuti delle ragioni che hanno indotto un detenuto anarchico, il primo sottoposto al peculiare regime restrittivo dall'introduzione dell'articolo 41 bis, ad intraprendere una battaglia che, dalla volontà espressa dal medesimo, non si arresterà se non con il suo decesso, stante la verosimile impossibilità di modificare il regime detentivo a cui è attualmente sottoposto. Alfredo Cospito è detenuto da oltre 10 anni, di cui 6 trascorsi per il quale è stato destinatario di misura cautelare in carcere, appunto per un reato associativo, in quanto indiziato di un reato associativo per un 270 bis, appunto per il quale è stato destinatario di misura cautelare in carcere nel settembre del 2016, sempre in circuiti penitenziari alta sicurezza 2, quindi quei circuiti destinati ai politici, trascorsi nella quasi totalità senza alcun vincolo di censura nella corrispondenza. In questo lungo periodo, Alfredo Cospito ha costantemente intrattenuto relazioni epistolari con decine o centinaia di anarchici e anarchiche, con siti e riviste della medesima matrice politica, partecipando anche all'esperienza editoriale che ha condotto alla pubblicazione di 2 libri sulla storia del movimento anarchico. Attività svolta alla luce del sole, in cui veniva esposto il pensiero anarchico del predetto e che lo ha visto, nonostante ciò, in almeno 3 occasioni destinatario di altrettante iniziative giudiziarie per il reato articolo 414, cioè l'istigazione a delinquere. E continuano gli avvocati. Pensiero anarchico che ha tuttavia posto in seria difficoltà i giudici, i quali nei diversi gradi di giudizio hanno alternato qualificazioni giuridiche contrapposte, talvolta riconducendolo all'abrogata propaganda sovversiva, altre all'istigazione a delinquere, con ciò dimostrando la labilità del confine tra le due fattispecie incriminatrici, nonché il delicato tema dei reati di opinione, posto a confronto con diritti di rango costituzionale, in un paese liberale, figlio degli insegnamenti del Beccaria e del Verri. Nella precedente detenzione in AS2, il Cospito riceveva libri e riviste, partecipava a dibattiti pubblici mediante contributi scritti, condivideva la sezione alta sicurezza con imputati della medesima area politica e o con detenuti politici, godeva di numerose ore d'aria, palestra, biblioteca, socialità e soprattutto non era stato sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis. Nonostante dal 2016, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Torino, era stato ritenuto comunque intraneo al sodalizio anarchico denominato FAI, la cui appartenenza nel 2022 sarà posta a fondamento del decreto ministeriale applicativo del cosiddetto carcere duro. Allora, dal maggio scorso, in assenza di avvenimenti che possano giustificare la diversità di trattamento penitenziario, il medesimo è privato di ogni diritto ed in particolare di leggere, studiare, informarsi su ciò che corrisponde alle sue inclinazioni e interessi. Un paese liberale, dicono gli avvocati, tutela tutte le ideologie, anche le più odiose, nonché il diritto allo studio e all'informazione quale strumento necessario sia al trattamento penitenziario in vista della rieducazione che allo sviluppo stesso della personalità umana. Quindi Alfredo Cospito non riceve alcuna corrispondenza, quelle in entrata sono tutte trattenute e quelle in uscita soffrono dell'autocensura del detenuto stesso. E vediamo le condizioni oggettive in cui il compagno si trova detenuto. Le ore d'aria si sono ridotte a 2, trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui perimetro è circondato da alti muri che impediscono alcuna visuale o semplicemente di estendere lo sguardo all'orizzonte, mentre la visuale del cielo è oscurata da una rete metallica, un luogo caratterizzato in estate da temperature torride e in inverno da un microclima umido e insalubre. La mancanza di profondità visiva incide inoltre sulla funzionalità del senso della vista, mentre la mancanza di sole sull'assunzione della vitamina D. La socialità è compiuta una sola ora al giorno in una saletta assieme a 3 detenuti sottoposti al regime da numerosissimi anni, che in realtà si riducono ad 1 in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto ad isolamento diurno per 2 anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella. Una condizione insopportabile che ora spinge Alfredo Cospito a rifiutare una vita priva di alcuna prospettiva futura, che apparirebbe tale a qualunque essere umano, ma che lo è in particolar modo per un uomo che vive e viveva delle relazioni che intratteneva con il mondo dei liberi. Una condizione talmente afflittiva da spingere il medesimo a rimpiangere la pena di morte per fucilazione, ritenuta più degna di un'infinita agonia in un limbo senza speranza. Tutto ciò senza neppure che sia stata ancora fissata l'udienza camerale per decidere sul reclamo avverso in decreto ministeriale applicativo del regime differenziato, nonostante l'articolo 41 bis preveda che entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo il tribunale lo debba valutare e quindi senza ancora sia stata sottoposta al vaglio della magistratura la stessa causa del trattamento deteriore che con il suo gesto estremo intende censurare e denunciare. Solo una precisazione musicale su quello che stiamo ascoltando, che anche prima abbiamo ascoltato questa band alla fine dell'intervento, questa band di Berlino, i Jingo de Lunch, dal loro album d'esordio datato 1987 che si intitola Perpetuum Mobile. Mentre altra cosa che magari che abbiamo sempre lasciato in sottofondo durante l'intervento, si sentiva questa band della zona di Milano, ovvero i Soviet Order Zero, dal loro album In Disparte, che è uscito nel 2019. Ma rimaniamo all'ascolto dei Jingo de Lunch. Sì, continuiamo a parlare appunto del compagno Alfredo Cospito e della sua condizione detentiva e della lotta che ha deciso di intraprendere, indicendo così questo sciopero della fame a oltranza. Tra l'altro Alfredo Cospito appunto ha iniziato lo sciopero della fame il 20 ottobre e il 25 ottobre si è unito a questa forma di protesta anche Juan Sorroche dal carcere di alta sicurezza, dalla sezione di alta sicurezza di Terni. E, beh, ricordiamo che questi due compagni insieme ad altri che allora erano detenuti anarchici hanno fatto un importante sciopero della fame nel 2019 proprio per la chiusura della sezione di alta sicurezza femminile dell'Aquila, sezione nella quale erano detenute Silvia e Anna, e appunto le compagne avevano iniziato questo sciopero della fame e a loro si erano poi uniti molti altri prigionieri anarchici in alta sicurezza, e così è stato un momento anche questo importante di coscienza e anche di generosità da parte dei compagni. Allora, vi ho letto un po' sintesi, diciamo, che gli avvocati Albertini e Pintus hanno fatto per diffondere, perché si sappia fuori dalle mura del carcere qual è la condizione del compagno prigioniero. E Flavio Rossi Albertini e altri avvocate e avvocati sono anche tra gli stesori di questo appello, diciamo, che poi è stato sottoscritto da parecchie decine di avvocati in tutta Italia, questo appello che praticamente vuole evidenziare come ci sia un accanimento giudiziario contro gli anarchici, un accanimento particolarmente efferato che fa pensare, appunto, riconduce, diciamo, a una sorta di diritto penale del nemico. E questo documento, vabbè, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Zardins, è molto importante e, appunto, praticamente gli avvocati sostengono che ci sia questo e che in questo momento sia rivolto in maniera specifica verso gli anarchici e le anarchiche, ci sia questa distorsione dell'apparato sanzionatorio verso la realizzazione di un vero e proprio diritto penale del nemico. E allora, questo appello è stato ripreso, diciamo, e anche questi contenuti sono stati ripresi anche da sono usciti un po' dal circuito, diciamo, come dicevo prima, della stretta militanza, e sono stati ripresi questi contenuti dal Dubbio, il giornale Il Dubbio, e recentemente, più in questi ultimi giorni, mi pare ieri, anche dal Riformista. Aspettate, non vorrei dire una cosa per l'altra se si tratta del Riformista, ma mi sembra di sì. Comunque, Il Dubbio nello specifico ha dato abbastanza spazio a questo appello degli avvocati e sì sì, avevo ragione, Il Riformista. Allora, dicevo, nel Dubbio si dà abbastanza così spazio all'appello degli avvocati e dice, appunto, Albertini che due giuristi sui quali anche, tra l'altro, chi studia giurisprudenza studia, appunto, prepara gli esami, e hanno ripreso in qualche maniera questo appello degli avvocati contro l'accanimento antianarchico, e non utilizzando le parole di diritto penale del nemico, però parlando di dicendo che lo strumento penale ha subito una torsione, cioè uno stravolgimento, dall'epoca della lotta armata in avanti. E allorché è stato chiamato non ad accertare un fatto, cioè dei fatti, quindi il compimento di reati, ma bensì a contrastare un fenomeno, appunto il fenomeno del terrorismo, facevano gli esempi questi giuristi, il fenomeno della mafia e il fenomeno dell'immigrazione clandestina, eccetera eccetera. Solo che, appunto, questi giuristi facevano notare, quindi dall'interno, diciamo, come i fenomeni, per così dire, sociali sono questioni che vanno affrontate in termini politici e non in termini penali e giudiziari. Quindi questa torsione, diciamo, dello strumento penale, questo abuso, diciamo, di strumento penale che anche questi giuristi così mainstream, usiamo questo termine, individuano, viene a evidenziare questa una erosione delle garanzie processuali in quello che invece noi definiamo diritto penale del nemico. E vabbè, questa è un'apertura, insomma, anche che può essere anche interessante in prospettiva. E, appunto, gli avvocati poi, sempre parlando della condizione di Alfredo, ma che è la più grave in questo momento, ma non solo, appunto ci dicono, ad esempio, ci sono delle prove inconsistenti che non sarebbero nemmeno ritenute prove se il processato non fosse individuato come il nemico dello Stato, appunto. Quindi prove inconsistenti diventano prove importanti di colpevolezza, diventano indizi di colpevolezza. E vabbè, poi rispetto al discorso delle occasioni di revisione, diciamo, rispetto alla classificazione di detenzione in 41 bis, cioè ci potrebbero essere, dicono gli avvocati, occasioni eccezionali di revisione nel caso di condizioni di grave rischio per la salute. E gli avvocati però nello stesso tempo ci fanno notare che, appunto, nel momento in cui viene presentato il reclamo, contro questa forma di detenzione e il reclamo è stato presentato immediatamente. L'autorità giudiziaria dovrebbe esprimersi al massimo entro 10 giorni. E invece, appunto, sono passati 6 mesi praticamente e ancora non è stata fissata una data, insomma, per questa analisi, diciamo, del reclamo. E quindi gli avvocati ci dicono, anche qui esistono, appunto, e ritorniamo al diritto penale del nemico, esistono due pesi e due misure. I termini per presentare il reclamo sono quelli, se li superi non puoi più presentare reclamo, quindi praticamente finita. Nel momento invece in cui quel reclamo deve essere valutato, i termini si dilatano senza avere alcuna scadenza. Ecco, e questa, appunto, gli avvocati concludevano dicendo così: se questo non rispetto dei tempi da parte della magistratura di sorveglianza venisse sanzionato, ad esempio, si potrebbe permettere al prigioniero di ritornare al regime detentivo precedente, cioè all'alta sicurezza 2. Quindi in questo caso ci sarebbe la possibilità di uscire dal 41 bis, cosa per la quale, appunto, cosa che è fondamentale, cioè in questo momento qui è fondamentale. Ecco, questo era un po' una carrellata su quello che sta succedendo ad Alfredo Cospito, sul suo sciopero della fame, appunto, che è iniziato il 20 ottobre e che è stato dichiarato ad oltranza e quindi fino al suo decesso, se non succede qualcosa. E appunto, anche abbiamo dato notizie anche, appunto, del che Juan Sorroque, il compagno Juan, si è unito allo sciopero della fame dalla S2 di Terni, dove tra l'altro era detenuto anche Alfredo prima di passare al 41 bis. In questi giorni, insomma, si succedono un sacco di iniziative in solidarietà con Alfredo e ora anche con Juan, e una per tutte ricordo la, perché sarà un corteo e sarà proprio a Sassari sabato 29 ottobre, ci sarà questo corteo contro il carcere e la società che lo rende necessario. To be, to feel who I am, put on the spot. ricordo che siamo ancora all'ascolto di questa band berlinese Jingo de Lanz, che comunque dal loro album datato 1987 Perpetuum Mobile è il titolo di questo album, e ascoltiamolo, che non è un disco di quelli malacci, ecco. Allora, ricordo che siete sempre all'ascolto di Zardins Magnetics, che è condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. E allora, prima ho nominato, poi ho lasciato a metà, per concludere questo discorso su 41 bis e solidarietà ai prigionieri in lotta. E, appunto, l'appello, diciamo, degli avvocati ha bucato un po' anche i mezzi di informazione mainstream, e sul Riformista di ieri Luigi Manconi, appunto, ha scritto un articolo dove dice, afferma che l'anarchico al 41 bis è totalmente illegale, quindi insomma assume questo punto di vista anche lui. Prima di cambiare argomento, e allora volevo darvi notizia di da parte di un prigioniero che è stato molti anni al 41 bis anche a Tolmezzo, e che è stato, parlo di Alessio Attanasio, che è un prigioniero veramente esemplare dal punto di vista della lotta contro la sua condizione e del coraggio anche di esporsi continuamente con le cose che deve dire. Ha fatto tantissimi reclami, è riuscito anche tra l'altro ad avere la meglio rispetto a questi reclami, rispetto alle direzioni delle carceri. Allora, in questo momento Alessio Attanasio non è più al 41 bis, si trova ad Oristano, e ci chiede di diffondere, diciamo, le condizioni di questo carcere. E quindi vado a leggervi letteralmente. Per quanto riguarda Oristano, qui si sta peggio del peggiore dei reparti di 41 bis, soprattutto in merito alla detenzione dei supporti informatici CD-ROM e alle modalità di ingresso di questi attraverso i difensori. Vengono controllati, infatti, nonostante sia del tutto illegale e vi siano precise ordinanze della magistratura di sorveglianza, come la seguente. E viene citata questa ordinanza: l'amministrazione penitenziaria introduce nei confronti dei soggetti sottoposti a regime speciale una limitazione non riconducibile alla norma primaria ed impone all'autorità giudiziaria un facere indebito. Infatti, nel caso in cui la documentazione riversata nel CD-ROM sia stata oggetto di corrispondenza, si introduce un controllo ulteriore rispetto al visto imposto dall'articolo 18. Nell'ipotesi di documentazione consegnata dal difensore brevi manu, cioè direttamente o con la corrispondenza, per ragioni di giustizia nelle forme previste dall'articolo 103, è inibito ogni tipo di controllo anche all'autorità giudiziaria. E questa era una ordinanza della magistratura di sorveglianza di Spoleto. Allora ci dice ancora Alessio Attanasio: a seguito di questa ordinanza in nessun istituto penitenziario di 41 bis sono mai stati controllati il CD-ROM che giungono dai difensori. Qui invece avviene, ed io sto inoltrando un'istanza al giorno alle autorità competenti, in merito a questo abuso. Anche in riferimento al cibo che entra dai pacchi postali e dai colloqui, vi sono limitazioni che non esistono in regime di 41 bis, così come vi sono limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto, come la farina, il lievito, il vino e la birra, generi questi qui a Oristano del tutto vietati, mentre in regime di detenzione speciale è possibile acquistarli. Ecco, quindi queste erano alcune cose, insomma, alcune note dolenti che Alessio Attanasio ci tiene a diffondere rispetto alla condizione detentiva ad Oristano. Ecco, allora passiamo a queste che abbiamo definito nella scaletta per chi l'ha ricevuta, insomma, storie di ordinaria militarizzazione e repressione Ancetal Nestri Biel Friul, perché ce n'è una per colore. E iniziamo dando notizia di un fatto molto grave che è successo a Udine, una perquisizione a casa di un compagno. Vi leggo il comunicato che abbiamo fatto. Negli ultimi giorni dello scorso mese di luglio, giornalacci locali e testate online hanno fatto un po' di gazzarra per qualche scritta e un attacchinaggio, oltre che per la distruzione di una lapide commemorativa. Si tratta della lapide posta in mezzo alla campagna a ricordo del centro di reclutamento di un lugubre corpo speciale del Regio Esercito, e cioè gli Arditi, in località Sdricca di Manzano, nel 1917. La mattina di mercoledì 19 ottobre scorso, un nostro compagno è stato convocato dai carabinieri nella caserma di Udine Est, dove gli è stato notificato l'avviso di garanzia come indagato per la vicenda, e dentro alla quale caserma è stato perquisito personalmente con ordine di denudamento, al quale ha disobbedito. Il gesto ha un carattere puramente intimidatorio e può anche rappresentare l'anticamera di trattamenti di condizionamento psicofisico più violento. In seguito i carabinieri hanno perquisito l'abitazione e l'auto del compagno, sequestrando bombolette con la spray e vernice, un telefono Nokia privo di connessione alla rete, tutti i computer, un martello. Al compagno va tutta la nostra solidarietà. Inoltre, non possiamo non concludere dicendo che riteniamo che la distruzione di quella lapide, le scritte e l'attacchinaggio siano stati un bene e per una volta abbiano fermato il dilagare annoso dei fasci su questa vicenda degli Arditi. Infatti, i comuni friulani di Capriva e Manzano hanno revocato il patrocinio al raduno della Federazione Nazionale Arditi d'Italia. La sala municipale della ex capitale della sedia è stata dichiarata indisponibile a ospitare una mostra fotografica e la presentazione di un volume. E infine, il concerto degli Ultima Frontiera si è ridimensionato a festa privata. Un tanto anche per rompere il silenzio peloso imposto dai custodi ufficiali dell'antifascismo istituzionale e la conseguente ipocrita omertà di vasti settori del movimento friulano e triestino. Udine, 25 ottobre 2022, Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione. Ecco, rimaniamo Talnestri Biel Friul rispetto alle demenze repressive e militariste per annunciare che a Udine ci sarà anche l'esercito in strada, oltre a tutte le svariate corpi delle forze dell'ordine di ogni colore e foggia, già presenti, le ronde, chi più ne ha più ne metta, ci sarà anche appunto l'esercito, e si cominceranno da lunedì. E appunto promettono di essere presenti attraverso un'unità mobile con operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Questa è una decisione del prefetto di Udine, che si chiama Massimo Marchesiello, che ha preso questa decisione, insomma, in una riunione tra le forze dell'ordine, i rappresentanti del comune di Udine e i vertici del comando militare dell'esercito, raggruppamento Friuli Venezia Giulia. Quindi questi militarazzi devono praticamente dare supporto ai servizi di vigilanza nei quartieri più sensibili, li chiamano loro, del capoluogo cittadino, come quello della stazione ferroviaria, che viene continuamente bersagliato, insomma, e stigmatizzato. Quindi praticamente questi militari saranno presenti in queste, in zona stazione, ma loro dicono anche eventualmente in altri luoghi delicati, diciamo, e in ausilio alle forze dell'ordine. Quindi ci si troverà praticamente in una situazione di città sicure, come le città metropolitane, cioè situazione che le città metropolitane già conoscono, appunto, con non solo sbirri di ogni genere, ma anche i militari che girano impuniti per le strade. E tra l'altro ci dicono appunto, l'esercito ci dice che gli ottimi risultati ci illustra che gli ottimi risultati che stanno già ottenendo nelle zone di confine, alla faccia. Ecco, questo è quello che dobbiamo aspettarci da lunedì prossimo. E poi, continuando così, due cose mi hanno colpito relativamente al discorso della repressione e del dilagare di una mentalità repressiva e anche di distruzione, diciamo, delle singolarità. È successa questa cosa, è successa a Urisina, una banda musicale di strada, che appunto ad Urisina girava per le vie attirando l'attenzione dei passanti, così, con i loro strumenti, per raccogliere qualche moneta, è stata praticamente, insomma, non garbava a una certa parte, insomma, dei residenti, perciò è stata chiamata la polizia, e praticamente questi artisti di strada sono stati, gli è stato consegnato un foglio di via con divieto di ritorno. Però tra questi musicisti c'era un trombettista, il quale voleva suonare la tromba, e quindi praticamente questo trombettista non se n'è andato, e quindi la sua inosservanza del foglio di via comporterà penalmente una libertà controllata. A questo punto il musicista si è allontanato, però si è reso irreperibile, ma la libertà controllata violata si è trasformata in pena detentiva. Insomma, per farla breve, questo per aver suonato la tromba si trova in via Spalato. E vabbè, quindi, per dire, veramente una cosa, cioè una roba allucinante. Insomma, qualsiasi gesto che non sia consono, che non sia, ma che sia semplicemente così, un momento, qualsiasi gesto selvaggio, anche così, privo di qualsiasi dannosità, viene ripagato con la carcerazione. E poi un altro fatto mi ha colpito un po' di giorni, era circa metà ottobre, alla radio, sulla RAI regionale, parlavano di un fatto, cioè di una donna, di una giovane donna trovata al volante dell'auto in autostrada, che avrebbe speronato le volanti, insomma, che andava a 30 all'ora, e ne parlavano come di un gesto di follia, tipo inconsulto. Poi invece è emerso che questa giovane donna di 26 anni, di nazionalità bulgara, praticamente ha utilizzato questo sistema, cioè il fatto di andare in autostrada a 30 all'ora, come forma di protesta sua individuale, una protesta randagia, io la definirei, ma però non priva di significato. Lei praticamente ha detto, lei sembra che abiti a Codroipo e stava facendo, voleva fare il tragitto Pordenone-Milano tutto a 30 all'ora, proprio come forma di protesta contro il caro vita. E aveva appeso alla sua auto un cartello dove appunto dice: basta, non ne possiamo più, non posso fermarmi, ci state uccidendo. E insomma dava la sua ragione. Praticamente questa ragazza lavora in Amazon come driver e quindi insomma vive in una condizione di povertà e di difficoltà, e dice su Instagram, mi pare che ha detto: ogni sera mi chiedo dove dormirò e io sono tra quelli più fortunati. E questo era scritto anche nel cartello di protesta attaccato alla macchina: se non dormo in quest'auto devo pagare almeno 50 euro a notte, mi sento umiliata dal mio governo, chiedete contratti a tempo indeterminato, affitti e consumi in aumento continuo, ci state uccidendo, basta. Praticamente quindi questa ragazza diceva che stava restando senza soldi, non ho niente da perdere, confessa, voglio fare questa cosa per tutti, vado ai 30 all'ora da Pordenone a Milano. E niente, allora anche qui sono arrivate le volanti a scongiurare un pericolo mortale, e vabbè, l'hanno blindata, lei ha speronato le volanti, quindi probabilmente era abbastanza determinata. Comunque, qual è il risultato di questa protesta? Una protesta oggettiva, visto le condizioni di questa persona, è stata deferita a piede libero alla procura di Treviso. Fra denunce penali e sanzioni amministrative, la sua condotta rischia di costarle cara. Si ipotizzano i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e anche turbativa in autostrada e rifiuto di fermarsi all'ALT. Beh, credo che anche questo avvenimento insomma faccia ragionare, faccia pensare. E niente, mi viene da dire in chiusura del mio intervento che siccome non è detto che il reale sia razionale e che il razionale sia reale, è importante dare notizia, dare voce anche a queste proteste che sono magari appunto individualiste, che sono magari poco strutturate, che vengono magari dalla pancia e dal cuore, diciamo in maniera più forte che da un ragionamento strutturato. È importante perché sono forme di ribellione a una società che veramente ci sta uccidendo, e non è nostra intenzione farci uccidere, ma resistere finché si può. Alla prossima, ciao. Bene, lasciamo in sottofondo questa band, sono i Confusione, una band di Torino, da un loro 7 pollici datato 2003. Poi volevo aggiornare o ricordare comunque il fatto di brani che abbiamo ascoltato prima, un po' uno in seguito all'altro, che prima così di leggere il comunicato, cioè prima e anche in seguito, abbiamo ascoltato due brani di band punk hardcore degli anni 80, anzi dei primi anni 80, ovvero gli Impact, band di Ferrara, band storica, ma anche in seguito al comunicato gli Upset Noise, band di Trieste, che così l'aggiunzione tra questi due, il fatto che entrambi i due brani si intitolavano Polizia, e poi abbiamo insomma ascoltato durante così il comunicati eccetera, come ho già detto, la band Soviet Order Zero, band della zona di Milano. Ma comunque, prima di salutarci definitivamente, rimaniamo all'ascolto dei Confusione. Bene, lasciamo comunque in sottofondo questa band di Torino, Confusione, dal loro 7 pollici datato 2003, perché siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci, potete farlo nella posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle della volta precedente, dei giovedì precedenti, potete andare su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. E inoltre vi ricordo che da poche settimane, il venerdì pomeriggio, andiamo anche in onda nella radio web Radiazione. Bene, siamo giunti al termine, quindi appuntamento per il prossimo giovedì, sempre qui in diretta radiofonica. Ciao a tutti, e vi lascio con questo ultimo brano di una punk band inglese, proprio band storica, ovvero i Kausuke, da un loro album uscito, dove raccoglievano tutti i singoli appunto dei primissimi anni 80. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.